Questo programma è in collaborazione con staimusic.com. Del lupo. E buonasera, iniziamo con una nuova puntata di Wolf Trips. Salutiamo la Cree dall'altra parte della scrivania, non del vetro, come ci siamo una volta. Ciao. Salutiamo Tony che è appena arrivato e salutiamo anche Katia che è qua al mio fianco che sta seguendo i sogialli. Ciao! Almeno ti sei sentita anche la tua voce. Va bene, oggi siamo alla puntata numero 20. Ormai il giro 20. Sì, ormai il giro di boa l'abbiamo fatto, tra poco saremo anche quasi al... Cos'è il terzo anno di Wolf Trips? Perché più o meno era marzo quando abbiamo fatto. Avevo iniziato a fare le prime puntate da solo, in solitaria. Beh, essendo anche su Radio Lupo solitaria, ci sta. Si sta, sì. Va bene, Tony, tutto a posto? Anche sì, se. Sì, ok, però, ok. Adesso intanto ti sistemi, poi dopo ti rimetti. Infatti. Già dire che mi sistemo una gran cosa. Va bene. Intanto vuoi lanciare i contatti tu, visto sì, che sei già pronta? Certo. Vai. Allora, ci potete scrivere su WhatsApp al numero 340-100-3617 oppure ci potete scrivere su Facebook, Instagram, diciamo che siamo molto social. Sì, grazie a Katia soprattutto. Stavo per dire grazie a Katia che fa aumentare i nostri follower con delle stories fantastiche. Sì, è vero, sempre molto divertenti, molto carine. Sì. E andiamo ad ascoltarci subito un brano, anzi no, aspetta, prima di ascoltare il brano volevo annunciare che avremo due ospiti, tra l'altro non so se uno o due, che sono andati a mangiarsi una pizza, tra poco arriveranno. E quindi direttamente in studio, che non lo sapevo neanche, quindi mi sono fatto una sorpresa. Surprise! Sì. Vengono qua a mangiare la pizza? Sì, vengono qua, ci mangiano la pizza e se ne vanno. Okay. Più o meno così. Non essere cacciati subito così. Ma sì, ma noi siamo anarchici. Giusto, alternativi, ideali alternativi. Noi siamo l'alternativo dell'alternativo, però è vero, è bella questa definizione qua, mi piace. Bene, intanto che finiamo di dire già le fregnacce a inizio puntata, lanciamo questo brano dell'etichetta La Belle, che proprio si chiama così. È così, Tony, è inutile che fai le... Ti senti bella? Le moine. Potrebbero fare una joint venture con la Brooke. Infatti. E loro sono Melinda più Maciek e il brano si chiama The Chase. Thank you. E sembravamo in un festival jazz oggi. Sì. Abbiamo fatto il momento colto, quindi adesso possiamo... Basta, ok, boh, basta. No, l'etichetta era la Net Label La Spazio Bell, non Label, che sembra poi... penso che sia quello il gioco di parole, no, poi alla fine. Ed sì, è di sì. Biella. Quindi la Biella. La Biella è un'altra cosa. Tra l'altro anche loro li ho contattati, ma non mi hanno risposto. Quindi li sto un po'... sto facendo un po' lo stalker, giusto per avere un riferimento. Magari, sai, anche scambiare due chiacchiere, capire anche un po' che tipo di musica fanno, visto che è un po' particolare. Intanto sotto abbiamo ancora il brano, e poi tra poco lanceremo la base invece sotto, che piace molto alla Cree. Questa è la solita vabbè, continuiamo subito con un po' di musica, così intanto ci scaldiamo, giusto Tony? Sì, è vero, stasera è un po' frescolino, però le temperature... Beh, sono diciamo troppo che alte. Oggi non ha fatto frescolino. Anzi. No. Oggi faceva veramente caldo. Allora, vabbè. Poi in realtà noi comunque veniamo anche ritrasmessi in altre regioni, in altri ambienti. Quindi non so che tempo faceva, tipo a Porlezza. Fa un po' più freschino sui montagni. Fa un po' più fresco. Credo, ma e a Venezia? A Venezia dovrebbe arrivare il gelo. Vedi, quindi non è che possiamo dire fa caldo, no, così a prescindere. Così. Chiediamo ai nostri ascoltatori. Infatti, dove ci possono contattare? L'avevi già detto prima. 340-100-3617. Fateci sapere anche voi com'è il tempo lì. Sembra che stiamo vendendo i materassi. Sì, vabbè, continuiamo con un'altra etichetta. Forse non so se è nuova tra quelle che abbiamo ascoltato in World Trips, ma mi piace parecchio. Pure sì. Pugna il microfono, scusa. Dai, non ti piaceva. Si chiama Cavi Collective. Non so, mi ricordo se non ho già ascoltato qualcosa di loro. Sì. E il brano che andiamo ad ascoltare ha una copertina un po' inquietante. Anche il titolo, ho capito dalla copertina, ecco, cosa vuol allora, dire. Sì, beh, effettivamente loro sono i Wayfield Asylum. Okay. E il titolo però non saprei pronunciarlo. Sketch on the wall. Che non so cosa voglio dire. Secondo me vuol dire schizzi. Ai, vedrei. Ah, bravo, perché forse la copertina è quello. Vabbè, andiamo a sentire cosa ci hanno da offrire. If you get into a place in the psychedelic that is difficult, Western people seem to freeze at the controls, and what you need to do is sing and recognize that sound is a tool for pushing energy around. Thank you. E il brano che abbiamo ascoltato era un brano della Dusted Walks Kingdom. Che è da un po' che non mettevamo un brano suo, quindi devo recuperare, no? Mi sembra? Sì. Sì, forse, non lo so, dici di no? Boh, secondo me no. No, ma li metti sempre. Vabbè, questo era un brano del produttore Leon, si chiama, e il genere da un tempo lo fai, trip-hop, strumentali pop. Vabbè, un po' di... dai, questa roba qua, dai. Bisogna riempire di robe, perché sennò sembra che non sta di nulla, invece... No, a me... La musica è bellissima, cioè, sì, quello sì, voglio sì. dire... Come, spazia molto... Come su che ti fa capire Instagram, che è un po'... Devi mettere 50 hashtag per, se, cioè, per far valere qualcosa, sennò... Sì, sì, no, in realtà potremmo fare una puntata solo sulla, diciamo, categorizzazione della musica, ecco. Okay. Però diventa un po' tipo Piero Angela poi la cosa, quindi non so quanto possa essere interessante. Sì, abbiamo capito, abbiamo capito. No, vabbè, consiglio ai miei colleghi, tanto non ci ascoltano, quindi è inutile. Ma sì. Che quando utilizzano Facebook di chiuderlo, perché poi magari io sono bravo, però magari c'è qualcun altro che fa che le balordate. I segreti. Anzi, no, guarda, facciamo una cosa che dovrebbero fare anche i nostri ascoltatori. Andare sul Facebook di Wolf Trips, infatti io sto facendo questo, e mettere like. Mi sembra una cosa giusta, no? Giusto per mantenerci, diciamo, coordinati con le nostre informazioni, tutte le nostre news, i podcast, tutto quanto. Perché stai ridendo? Niente. Vabbè, Ti sei incartato in una maniera proprio... Non mi sono incartato, pensa a te, perché stavo mettendo il like alla pagina di Wolf Trips, intanto stavo anche parlando. Tu stavi facendo quello che stavi dicendo di fare. Cioè, quindi non mi sono incartato per niente, ho dovuto fare queste cose qua. Wow. Comunque... I passaggi, proprio... Hai visto? Vabbè, adesso invece ci ascoltiamo un po' di, penso, reggae. No, lo so che è reggae, però a vedere l'immagine non è che può essere metal, ecco, mettiamolo beh, così. Sì, beh, dai, con sì, un po' di immaginazione. Anni 90, sì. Si sembra un po' tipo, no, a Insensi un po' ingrassato, no? Sì, bella citazione, neanche forse un po' male, neanche. Insensi. Sì. No. No, andiamocene. Vabbè, questa l'etichetta è la Dubphonic, quindi ormai esperta nella musica dub, la musica reggae. Andiamo ad ascoltarci un brano di Culturhorn. Culturhorn, sì, dai. Non è Sensi, no. Okay. No, non è Sensi. Lui sarà Maddie Simmons. Simons. Il brano si chiama I Am a Rootsman. Ma va? A vedere la foto non sembrava. E secondo me un po' di reggae c'è dentro. Io direi che il brano più o meno è così. Così, a grandi linee, mi sa che è così. Andiamo ad ascoltarlo. Living is my way. Vabbè, questo era sicuramente dub, Tony. Roots, come, non lo so. Poi se mi perdo un po' sulla, sul genere sono... reggae, dai, reggae, buon via. Sì, diciamo. Vabbè, quello era Made in Jamaica. Sì, questa etichetta qua effettivamente non è male. L'unica cosa è che è un po', possiamo dire, poche release, fa poca roba, nel senso non produce molto, bisogna un po' stimolarla. Lo sai cos'è? La musica che fanno loro, no? È molto rilassante. Dice, allora... si sono rilassati talmente però invece in realtà devo dirti che fanno veramente tante serate con quei tre dischi che hanno pubblicato. Devo dire la verità, sono veramente attivi da quel punto di vista. Vabbè, di buon per loro. Di dove sono? Non me lo ricordo. Aspetta, ma in realtà lo stavo leggendo prima, poi mi sono perso. Aspetta che ho un problemino. Ok. No, allora, secondo me non saranno sicuramente di Gallarate, quello è poco ma sicuro, no? Beh, non lo so, perché come vedi te, abbiamo intervistato persone che o da Avellino così facciano questo tipo di musica, dunque si può anche essere che siano della provincia. Può anche essere. Vabbè. Comunque no, in realtà loro hanno fatto molte uscite, però nelle compilation. No, sai cosa? Hanno iniziato a fare delle uscite a pagamento, quindi io ho effettivamente skippato, ecco, a pie pari. Effettivamente anche a livello digitale, sai, magari hanno investito un po' più roba nel progetto, quindi hanno reputato di sì, net label, però anche qualcosa a pagamento. Quindi diciamo, abbiamo ascoltato questo brano, forse qualche altro brano abbiamo ascoltato da Dubphonic, ma sempre a livello, come diciamo, sempre in ambito net label, ecco, quindi gratuito. Va bene, andiamo avanti con un po' di musica. Intanto dovrebbero arrivare anche i nostri ospiti di stasera. E dovrebbe arrivare anche Fabio. Dovrebbe arrivare anche Fabio, il nostro ospite di stasera. Sì, ma bisognerebbe pubblicare la sua GIF. Sì, infatti, ma anche la mia non era male. Sì, due simpaticoni, però. Allora, il prossimo brano è Imagine Dead, Quiet Day. E non mi ricordo la net label, mi sembra Block Sonic, ma non ne sono sicuro. Quindi, se vi piace il brano, volete andarlo a scoprire di chi è, che cos'è, perché, dove scaricarlo, potete trovare poi sulla tracklist che metteremo nei prossimi giorni della puntata. Thank you. Vabbè, stiamo facendo una prima parte della puntata abbastanza tranquilla. Molto soft. Molto direi. Soft, sì, sì. Poi dopo inizieremo un po' a incrementare il. Spero che i nostri ospiti abbiano già bevuto il caffè, che sennò. Dici, si addormentano proprio. No, vabbè, non svegliamo altro, dai, dopo tanto li intervisteremo. Cosa, mamma mia. Vabbè, è così, è così. No, ma guarda, stasera è una cosa impossibile. Perché? Che sono fatto? Niente. No, beh, fai te. Va bene, va bene. Ascolta, facciamo così, lanciamo subito il brano che ho un po' di cose da gestire qua in radio, quindi mi devo muovere. Allora, il prossimo brano è di Yunis Fit Moniker con Mitra. Tra l'altro è un remix, non so che genere sia, non lo so, adesso andiamo a scoprire. Titolo inquietante. Titolo inquietante, sì, abbastanza. E l'etichetta è Saturate Record, quindi un'altra, forse una nuova di net label che stiamo andando ad ascoltare. Andiamo a sentirlo. Music.com. Torna il venerdì Wolf Trips. I viaggi del lupo. Il programma dedicato alla musica del futuro. Dalle 20 alle 22 preparatevi. Per due ore. Like no exit at certain times, so we just need to escape. Let me take a ride on this great escape. Get funky on the track, get monkeys off my back and drown them. And that's a bathing ape. Gotta get this rust off, game's mine. Dust off them, save the dates. Cuffs off, now I can't stop. It was only right I take a break. Get it? My mechanics still got advantage over anybody on the planet. You're wrestling with a Tesla, put bodies on the canvas. Hot trash, ain't got class. I tsunami on your campus. I'm hot shit, spit toxic. I probably need a pamphlet. That's beside the point, like a new sentence. My verse is iceberg, that mean your crew finished. I align words and time perfect. Who did it? They screaming on the scene, I leave no loose endings. Breeze on his good foot like your shoes missing. Evil, looking for the great escape. Uh-huh, yeah. Looking to the greener side. I don't know where they expect to go. Trapped here. Evil, yeah. Looking for the great escape. Nowhere to go. Looking to the greener side. We gotta make the most of this. I'm trying to get away, eliminate the hatred. Escape in this place every day, what we faced with. Deface it, X out the exit, expect it. When you stand out, they don't accept it. Best get past that where the grass green. Nights here, nightmares, daytime, bad dreams. A sad scene, routine until we breaking out. Instead of soul searching, the person would rather take it out. Mind showcased every time I rock beats. Maybe that's the reason I like to sample these rock beats. Thoughts deep, never getting to the bottom though. Bottom row, price they pay. I never bought it though, nah. Just getting comfy in this trap, so I bet the walls do it way before you see me crack. Back up and at 'em, it's just another day. Nowhere to go, but they still trying to run away. Evil, looking for the great escape. Looking to the greener side, trying to find a better way. About to enter the mind. Evil, looking for the great escape. This is brilliant, baby. No exit. Get it. Four walls and no bars, I'm trapped in my own mind, relaxed, there's no distractions. Black winters and white summers, the ninth wonder. You got soul, I know, I take it right from you. Lights under the highways as I gaze to the stars and fall in a new direction. God calling, an art ball and a mark on them. Here's my Jean Hancock for the art form. Broad day with the ball playing, no parlaying. Got a ball in my French, we the shit. Recommissioned the Caesar, this in a weak condition. But when the king is in the building, you perceive the city. Yeah, yeah, all the air's here, you can see the difference. It's detrimental to bless a pencil, I sketch a verse, and that's a body bag, yeah, check the hearse. Evil, looking for the great escape, looking to the greener side, trying to find a better way. Evil, looking for the great escape, looking to the greener side, trying to find a better way. These walls are closing in, just me and my bloody pen. We go together like Joker and Harley Quinn. Even if we caged in, never see a day of light. We make the best out of change, watch me pay the price. Back against the wall, I'm cornered in my room, trying to catch a break like dope tracks on iTunes. Let's get dramatic. My brain elastic, stretched out like my arms in a straitjacket. I can't escape the rage, too much pain. My mind stayed trapped, I'm a victim to the game. Focus on that plan, but that blueprint is scripted out. Since a young one, I always chose a different route. I'm a gift and a curse, trapped in a bottle with a genie. Break through these chains, I'm a modern day Houdini. Now you see me, now you don't. I'm just trying to prove a point, 'cause an illusion is what you see through the hoax. Jeez. There's no escaping, baby. Once you enter, you're on the road to insanity. Eh sì, ci siamo fatti un pochettino di pausa. Intanto abbiamo ascoltato un po' di musica. E questo brano era, questa era della Block Sonic, quindi mi sono confuso prima. Un'etichetta net label d'oltreoceano che produce soprattutto musica elettronica mischiata con, tipo in questo caso, sentire hip hop. Ma hip hop sì, è un po' generico, diciamo, è vero, urban, è vero. Dai, sì, dai, va bene, no, è vero, è un po' urban. Generico, hai ragione, ragione. Sì, perché poi parla di rap e parlo di reggaeton, adesso un trap. Proprio diciamo il mega mischione. Trap. Il mega mischione. Intanto, chi ci può vedere in webcam vede che dietro di voi ci sono i Devia Clan. Che andiamo subito a introdurre con un brano. E poi dopo. Mi, sembra, faccio... di se... mi sembra di sì? essere uno dei public enemy. Sì, sì, vi vedono. Mi sembra di essere dei public enemy con le guardie dietro. Vero, vero. Citare. Le guardie del corpo. Sì. Allora, guarda, non introduco nulla. Lancio subito il brano e poi dopo lascio a loro la parola per dirci un po' di più sul loro brano. Questo è Devia Clan con Trash to Cash. Bravo. cash, soul refresh, 17 tracks, sample cut, scratch, rap, sintetizzatori e sax, metriche da troublemaker contro il troppo make-up, trash to cash, Montana Cobra Clash, banana skinny fat caps, lettering sketch, bombing outlines, block your wild styles, decolupa, spar due tech, via, cago merda, peso oro, preso un toro per le corna, come un borlo e mi deforma, dialogo col corpo che mi informa, al diavolo ritornerà e mi passerà la forca, mi impasterà la bocca, mi passerà la botta, non lo so, talmente sotto per sta roba che ormai spungo là sopra, deviazione clunch, è quanto, prova a metterti dentro i miei panni e poi scoppia, come chi storpia, realtà complotta e non sa cosa comporta, gioca a fondo la flotta, confonde la forca, con la foga di una troia bocca aperta, che aspetta la gloria, chiude gli occhi in caso il getto cambiasse la traiettoria, la teoria trae tutti, la pratica gli di mezzo e taglia teste come un boia, deviazione clan, soul, funk, soul, già, ti tiro fuori flow fino a che tirerò le cuoia, flash to cash, Montana Cobra Clash, banana skinny fat caps, lettering sketch, bombing outlines, block your wild styles, decolo passpar due tag, trash to cash, soul refresh, 17 tracks, sample cut, scratch, rap, sintetizzatori e sax, metriche da troublemaker contro il troppo make-up. Era il brano dei Devia Clan con Trash to Cash, yeah, che tra l'altro abbiamo dall'altra parte del microfono. Eccoci. Ciao, ciao. Presentatevi, ciao tutti e tre. Cioè, ditevi come vi chiamate. Ok, partito dal centro, sono Ingo, uno degli MC appunto dei Devia Clan. Alla mia destra c'è Alan, lo Scratch, e Isaac, l'altro MC. Oh, vedi, bene, ha già detto un elemento importante, perché voi siete una, mi anticipate che siete una band live, essenzialmente. Sì. Siamo una cifra. Siete una cifra. Siamo una piccola squadra di calcio a 7. Vabbè, bello, sette, bello. Caspita. E quindi come, cioè, questa, mi interessa questa cosa, quindi com'è che si sviluppa il vostro, la vostra musica, a parte vabbè, quello che abbiamo ascoltato, che poi ne parliamo, però anche il tipo live, quella è una cosa che mi piacerebbe. Allora, intanto noi, come dicevo prima, siamo in sette, quindi siamo due voci, basso, batteria, percussioni, synth, scratch. Ok. E niente, appunto, come diceva prima Ingo, come ti raccontava, noi siamo partiti in due anni fa da ragazzetti, ormai quasi 15 anni fa. Penso. Più o meno, porca puttana, sì. E nel tempo, sai, abbiamo avuto vari amici che suonavano e alla fine abbiamo tirato insieme negli anni. Poi abbiamo, col batterista, abbiamo iniziato a fare il primo disco, le prime produzioni nella vecchia formazione. E invece poi 4 anni fa abbiamo tirato insieme la band con i vari amici che arrivavano da varie influenze di vari generi. Abbiamo unito le forze. Abbiamo unito le forze. E ora siamo, diciamo, come ripartiti da zero. Boom. Questo è il primo progetto. Il primo step da fare. Quindi questo brano che abbiamo ascoltato, invece, cosa ci dite? Vai. Cosa vi diciamo? Questo brano, diciamo che sicuramente tira un po' in mezzo nella questione di riuscire a trasformare la propria merda appunto in oro. e lo facciamo attraverso la capacità. Esatto. E sicuramente in questo caso attraverso la musica o comunque cose che anche derivano, lui mette di mezzo il writing, lui mette di mezzo i tattoo, cose che usiamo a livello di tutti i giorni e culturalmente usiamo. Okay. Diciamo, quello che diciamo un po' la nostra storia, che ci ha permesso di poi fare la nostra strada. Ed è il primo singolo esattamente che è fuori su YouTube. Quindi possiamo dire dei Remida del futuro. Giusto. Del presente. Del presente, del presente. Non è che uno può campare cent'anni, eh. Ci proviamo. Dai. Nico, non è che sono giovanissimi no, noi, ragazzi. Noi ci proviamo comunque a campare. Certo, sempre provarci. Giusto, perché. Giusto, giusto. E comunque la, cioè, dal primo pezzo... No, il pezzo è bello, io come, cioè, allora, grazie mille. Adesso noi siamo, adesso vi dico come siamo formati noi, no? Io sono quello che fa un po' la, diciamo, la parte di analisi, mastering, mixing, bella. Poi ci manca, vabbè, poi c'è il conoscitore di generi musicali vari e assortiti. E poi abbiamo quello invece che solitamente quando ascoltiamo magari le band, che però adesso manca, controlla un po', diciamo, la parte melodica, poi magari se qualità. Secondo me avete tre step di certificati, ho visto. Bravissimo. Sì, ma è proprio l'ultimo che è quello che fa più. No, però approverebbe e apprezzerebbe, quindi sì. Aspettiamo la, tanto immagino dovrebbe arrivare. Anche dal vivo siete veramente una bomba, già se suonate così. Sì, lo scopo è quello di essere meglio, meglio, meglio, molto meglio. Sì, sì. Giusto, giusto, anzi, giusto. Esatto, bravo, meglio, meglio. Bene, bene, bene. Va bene, andiamo a ascoltare il prossimo brano allora. Yeah. E Sample Story. Ci volete già dire qualcosa o... Ma parliamo dopo. Va bene, va bene, andiamo a sentirlo. Da dove provengono? Giusto. Mi fa andare piano e ti respiro pure meglio. Diventare ciò che sto facendo. Sogno mentre mi concedo di restare sveglio. È tutto mosso dall'intento di riportarti in vita in un disegno, rappresentando ciò che sento. Arrivare fino dove non ha senso. Usare il fallimento come maestro. Gli emisferi sono il mezzo, ma con il cuore attiro l'universo. Come vuoi chiamarlo, tanto non fa testo. Ne resterò al centro, ovunque sarò messo. Dimentica il prezzo e ricorda la ricchezza. Il valore di noi stessi nella consapevolezza. C'è chi ha fatto la stessa cosa trasmessa da un'antica saggezza. Nel futuro ci aspetta per essere espressa attraverso la tecnica. La mente diventa eclettica, l'aria elettrica. La realtà rivela la sua estetica. Persa nel potere del silenzio dove medita. Provoco l'incendio che mi medica. Per restituire all'arte il valore che si merita. Non c'è bisogno di un museo. Io chiedo nulla perché dal nulla creo. Let's try to listen to me, baby. By my side. Ho meditato su ogni singolo puntino e come un bambino ho cominciato a decorare i vostri corpi, mondi sommersi. E mi sembra solo ieri che ascoltavo i vostri discorsi emersi. Ora sono lo scriba dei vostri pensieri. È il mio mantra quotidiano. Piccoli segni che comprendono un disegno straordinario. È un'immagine più grande di ogni umano. E mano a mano la comprendiamo, la dimentichiamo. Ogni tanto mi trema la mano, ma chiudo gli occhi e lascio che il mio cuore spinga più lontano. Dove andiamo non mi importa. Tragitto che vivo che mi dà forza. E vivo nel presente, condivido connessioni. Le correnti gravitazionali creano collisioni. E incontro ciò che che amo, ciò che amaro, ciò che è strano, ma in fondo è ciò per cui viviamo. Ho vissuto e vivo storie su questo sentiero. Ogni uomo sa da sé ciò che vede davvero. E nella nebbia che accarezza questo fiume blu, diverrò un pesce grosso come Edward Blue. Qua si sentiva lo scratch, bello. E qui si sentiva lo scratch. Bello. Qui ci sono 5 kg di scratch. Esatto. La pala, abbiamo messo lo scratch. Esatto. Ringraziamo Manuel che ci ha fatto il ritornello. Grande, grazie, Manuel. Grazie mille. Grande Manuel. E cosa si chiamava? È sample? Sample story. Sample story. Quindi, sarebbe in realtà simple story, quindi una storia semplice, però abbiamo voluto... Ah, io esagerare. Un gioco di parole, sample. Un gioco di parole arrivando appunto dall'hip hop e dall'uso del sample. Quindi c'era qualcosa di campionato o no? No, in realtà no. Qui no. Puoi campionare se vuoi. No, ok. Se volete campionare. Va bene, va bene. Magari diventa più famoso il remix del pezzo. Esatto. Sai, sample story. I musicisti che sono campionati, perché il campionato alla fine non c'è nulla. No, in realtà di campionato realmente no. Anche il solito scratch se l'hai continuato a fare, quindi non era nemmeno campionato quello. No, anzi, buona la prima anche, perché non c'era tempo di stare troppo nell'alza. Quindi insomma bisogna anche considerare questo. Vabbè, insomma quindi in quanto tempo l'avete registrato l'album che ci avete portato? Album, EP, come lo volete chiamare? EP, dai, sì, effettivamente. Quante sono? 5 tracce, sì, 5 dai, tracce. Ci sta. Poi EP, ci sta. Anche 2 bonus track che si trovano su Bandcamp. Ah, pensavo fosse. Non so se avete preso. Stile. No, ma dopo vi lascio lo spazio lasciato. Bravissimo, sì, tipo quello dei Korn, no? Che c'era le 99 tracce, la 98esima, c'erano delle cose. In realtà l'abbiamo messo in formato digitale. Va bene. Ma in quanto tempo abbiamo registrato questo disco? Allora, sì. In realtà il lavoro per il progetto ormai deve da 5 anni. Abbiamo iniziato a lavorare, quindi prima abbiamo pensato a preparare il live. Molto. E poi ci siamo messi a lavorare circa 2-3 anni fa. Due anni fa col produttore Leonardo Biccari della Cura Production, che insieme abbiamo presentato i pezzi che avevamo preparato appunto in sala prove, e da lì abbiamo iniziato a lavorare sugli arrangiamenti, okay, la parte tutoriale, da lì tanto sperimentavamo live. E intanto continuavamo a portare in giro i live comunque. E questa è una cosa effettivamente è una cosa buona, perché ho visto tanti gruppi che fanno così, nel senso dal live poi vanno, esatto. Invece magari ultimamente si utilizza più, ti fai il tuo prodotto, esatto, e poi dopo, esatto, cerchi di riportarlo live. Ma esatto, un po' più antica quasi. Io avevo una domanda. Come avviene la scrittura dei testi, dei pezzi? Ognuno si scrive i propri. Ah, ok. Quindi... Sono punti che si incontrano, esatto. No, beh, lui ci conosciamo da tanto, quindi abbiamo comunque, sappiamo la direzione che vogliamo prendere. C'è anche il progetto stesso, comunque ha una sua direzione. Se ascolterete poi tutto il disco, capirete anche dei testi. E quindi a volte, sai, ci mettiamo lì o partiamo, ognuno scrive la sua, poi ce lo facciamo sentire l'uno con l'altro e da lì si studia il pezzo, oppure magari c'è un argomento che a uno di voi interessa, vorrei parlare, esatto, di questa cosa. E da lì ognuno poi comunque cambiamo idea, perché... esatto. Ognuno poi mette giù il suo modo di scrivere, il suo modo di lavorare, di conseguenza ognuno scrive, ci si trova in sala prove e via. Bene. Beh, anche il fatto comunque che suonate live non è. È apprezzabile, non è male. Mi raccontavano prima che comunque sono in 7 e arrivano tutti lì da varie esperienze, anche al di fuori della musica che fanno loro. Cioè, sì, comunque c'è un po' di tutto che viene, come dire, esatto, riassunto. C'è più sapienza che arriva a fare questo funky pop. Sì, esatto. Non i due ragazzini che adesso si mettono davanti a un computer. No, vabbè, e si sente. No, infatti, cioè, dipende dall'obiettivo qual è poi alla fine. Va bene, andiamo ad ascoltare il prossimo brano. Allora niente, facciamo come abbiamo fatto prima. Dopo ce lo raccontate dopo, allora. Va bene. Il brano si chiama La Mala Italia. Chissà perché, vedremo perché. Funky dope maneuver. ti restano solo schizzi. E so che pensate che non è cosa nuova, ma vorreste tutti avere i soldi di Donald, sentirvi grandi con nulla da temere, il motivo per cui molti sono messi a tacere. Strette di mano e bocche cucite, una mano lava l'altra se l'altra è corruttibile. Dai 70 mani pulite, ad oggi cambiano i mezzi, il risultato è molto simile. È una storia ripetuta nel tempo, il popolo odia il re ma vorrebbe il suo regno. E se ogni azione comporta una reazione, saranno le nostre scelte a trarne la conclusione. Oh! Qui non è Hollywood, non è Al Pacino, oh! Non è Rodriguez né Tarantino, oh! Non è in pellicola che è tutto vero, sangue come un barro, mentira se è vero. Oh! Non è Scorsese, non è De Niro, oh! Non è De Palma, non è Carlito, oh! Non è in pellicola che è tutto vero, sangue come un barro, mentira se è vero. La mia terra è libera, ma non è sicura, la coscienza collettiva si ripete in miniatura, l'Italia incorniciata nella sua caricatura, lo stivale prende a calci in culo la cultura, la caduta dell'impero, immagino sul serio non sia mai avvenuta, la dittatura cambia come la valuta, maltratta la natura mentre canta la canzone del buon padre di famiglia che però ne ammazza un'altra, siamo sulla stessa barca che affonda in mezzo al mare, ci vuole un tribunale per tornare sulla nave, viviamo dentro i talent, dove i giudici intrattengono chi non sa giudicare, scrausi siete e resterete scrausi, pure con un pubblico pagato per gli applausi, mentire costa caro, tutti sanno che è morto Totorina, ma nessuno sa dov'è Matteo Messina Denaro. Oh! Qui non è Hollywood, non è Al Pacino, oh! Non è Rodriguez né Tarantino, oh! Non è in pellicola che è tutto vero, sangue d'uomo barro, mentira se è vero. Non è Scorsese, non è De Niro, oh! Niente, io me la devo riascoltare perché ero preso dall'arrivo di Fabio e non l'ho ascoltata bene. Ho sentito un po' il groove e mi piaceva, molto più funky questo, però devo riascoltarmelo. Sì. Ma c'è una bella parte di percussioni di cibo. Li ascolterò col vostro CD, quindi me lo rimetto in macchina e riascolto. Sembra una cosa. Io voglio una copia. Avrai la copia. Volentieri. Va bene. Oggi non sapevo quanti eravate, ne abbiamo portato una. Sì. Vabbè, ciao Fabio. Ciao a tutti. Ti presentiamo anche Fabio. Ciao. E questo quindi si chiamava La Mala Italia, giusto? La Mala Italia, esatto, sì. Esatto. La Mala Italia, un po' banale come l'Italia. Ma come mai? Cioè, adesso vabbè, ripeto, non l'ho ascoltato bene, però dammi qualche informazione in perché più. Perché a livello di groove abbiamo detto che vabbè, sicuramente ha più percussioni, sì, vabbè. Sì. A livello di testa è qualcosa che sicuramente parla di un tema quasi ormai che dici, cioè scontato, ma non lo è mai in verità. Infatti noi tentiamo di dire questa cosa qua all'interno di questo pezzo. E raccontare appunto le magagne e le truffe cui l'uomo, anche se non se ne accorge, vive tutti i giorni. Ok, vabbè, un pezzo un po' più di, diciamo, protesta. Diciamo la protesta. E che la protesta non diventi qualcosa di banale, perché è lì che poi si fermano le cose. Bravo. Anzi, si è fatto diventare la protesta così banale, in modo che la gente non sia più interessata a guardare dietro la tenda cosa c'è, capito? Normale anche. Quindi, è una cosa normale. Quindi adesso è più interessante fare i pagliacci che. No, che poi risultati, se c'è caso. Che protesta, poi sta... vai pure. No, dico protesta, ma con un motivo sensato, non è neanche facciata, facciamo la protesta, allora prendiamo di. No, si cerca di raccontare la realtà di quello che viviamo, di quello che vediamo. Tu Fabio stavi ascoltando un po' il brano, come ti sembrano? Sì, l'ho sentito in corso. Aveva un bel groove, una bella ritmica. Poi il basso ve l'ho detto anche prima, complimenti al bassista. Riferiremo al bassista. Bravo Marcio McFly e il suo tocco magico. Dicevi che non è una bella figa. C'ha un bel tocco con le dita, proprio si sente un bel ragazzo. Il colpo che dà. Bravo. Tra l'altro devo fare un annuncio, perché noi, tra l'altro, a me fa piacere che siete venuti, anzi almeno abbiamo conosciuto anche qualcosa di nuovo, effettivamente nuovissimo. Ah, grazie di quello. A voi, ovvero. Ma volevamo anche intervistare Marcio, perché noi abbiamo passato un po' dei suoi brani e cioè eravamo veramente erano bellissimi. Beh, però vabbè. Potrebbe venire qua con i suoi vari progetti anche qua. Sì. Vabbè, lo aspetteremo. Sono felice di venire. Lo aspetteremo auguri per i prossimi. Se intervistate Marcio, tanti auguri. Aia. Preparatevi, provate al peggio. Marcio non a casa. Ah, ok. Adesso capisco. Telefonica, allora. No, interessa telefonica. È educatissimo. No. Porto le mollette da casa al massimo. No, non c'entrava quello. Molto peggio. Va bene. È Marcio di linguaggio. Ah, ok. Ma sì, ma noi anche noi siamo un po' sporchi, brutti e cattivi, dai. Non è che ci facciamo troppo. Certo. Infatti non ho dubbi. Non abbiamo queste, noi facciamo queste, diciamo, fisime mentali, dai. E niente, siamo arrivati all'ultimo brano dei vostri che ci avete proposto, che è Digital Circus. Digital Circus. Che mi avete detto però di metterlo in fondo, c'era un motivo particolare, perché giusto? Perché è il secondo singolo dell'EP che uscirà appunto il 25 febbraio. Ok. Ma una domanda che adesso poi dopo, mentre parlavamo, mi era venuta in mente. Avete detto che avete messo anche qualcosa su YouTube, ma avete fatto un video o è solo la musica? No. Ci sono all'interno del nostro canale Devia Clan e del canale Racuna Production, troverete i due primi spot, che sono Teschio Tibia e Republic. Uh-huh. Sono due pezzi short, uno dei teaser, uno diciamo. Sì. Esatto. E poi c'è, per ora c'è appunto Trash to Cash, che è il primo singolo, con video fatto dalla Grindhouse Production. Ciao Nicolò. Salutiamo Nicolò. Ciao Nicolò. Ciao. Nico. E adesso uscirà Digital Circus con anche il suo video. Stavo tirando giù tutto, ragazzi. Addio radio. No, un'altra cosa che volevo chiedere, perché tempo fa stavamo facendo un ragionamento con un altro ragazzo con cui suoniamo ogni tanto. E questa è una cosa che vi domando a voi, anche se so già un po' la risposta, però voglio avere il vostro parere, che devia un po' da quello che stiamo ascoltando. Cioè, ma secondo voi oggi tante band creano, cioè si fondono solo per fare il video su YouTube e poi magari non suonano neanche? Cioè, ti ricordi quando stavamo parlando con il buon Felice, no? Cioè lui dice che ci sono tante band che fanno così. Allora, vi seguo, 15 anni fa, io vengo dal punk rock, quindi si sta la prova, si suonava, c'è tanta gavetta, facevi locale 10 persone, eri contento. Adesso vedi che tanti si mettono lì, io sono di qua, tu suoni a casa tua, fanno il progetto, ma poi non suonano mai dal vivo. Poi non esiste il progetto. Bravo, magari non si sono neanche mai visti in faccia per fare quest'idea insieme, cioè quando ti vedi con l'artista, cioè fai le cose più belle, io suono un pezzo, tu lo senti, me lo modifichi e da lì nasce un pezzo unico, no? Guarda, tra l'altro, scusami, posso, perché è una cosa molto giusta per questo pezzo che si chiama Digital Circus, no? Quindi in realtà senza farlo apposta abbiamo introdotto l'argomento. Hai visto perché che te l'ho messa lì proprio sul piatto d'argento. No. Perché ad oggi, ovviamente, siamo nel mondo del web, che ci mancherebbe, sì. Non è il, no, no, cioè, il web. No, no, cioè, non è. A volte è come viene utilizzato, diciamo. E ad oggi cos'è più importante della musica, purtroppo, in molti campi, non in tutti, ovviamente. Il contenitore, capito? Più del contenuto, cioè, quindi se io impacchetto un bel video divento quasi più uno youtuber che musicista. E infatti quello... se io impacchetto la bella immagine di me, è quello che conterà di più sul mercato, ok? Certo. Di conseguenza trovi una musica infatti più uguale per tutti, trovi una musica più standardizzata, mettiamola così, perché secondo me manca un po' la sinergia e la collaborazione, infatti, tra le persone. Secondo me ultimamente, negli ultimi anni, vende di più l'immagine che il contenuto musicale. Sicuro. Cioè, molte volte senti tanti pezzi che non hanno niente di che, poi magari ti trovi un ragazzino in giro, mi capisci, suonare giovane, e ti fa un pezzo che l'ha inventato lui. Poi vedi il grande artista, ti fa il grande artista, lo youtuber ti fa la cover, l'immagine, e magari te la va a vendere, no? Ma poi di suo non ci mette nulla. No, no, no, ma anche nei pezzi che crea sono fotocopie di cose già sentite. Ad oggi la musica è impresa, non è. Bravo. È vero. No, ragazzi, perché ad oggi è così, cioè, è brutto da dire, ma 60-70% della musica è impresa, ok? Quindi io devo investire su un progetto, quello che vende quello, lo facciamo e lo vendiamo. E da lì si va a sgretolare il messaggio, l'arte, la comunicazione, la sinergia che si crea dagli artisti. Certo. Perfetto, perfetto. Va bene, andiamo ad ascoltare il brano, poi dopo ritorniamo a fare ancora un po' due chiacchiere. Yeah. spiaggia e libri, vinili, logori e lividi, face to face coi propri simili. Ora è l'era dell'ero digitale, generazione educata da un padre virtuale, senza una voce ma un eco mondiale. Osservi la tua vita grazie a un tubo, il tuo scudo è un profilo che non ti mette a nudo, e tu, tu condividi file, mail, chat, news e sex tape, ma vivi una realtà innestata come Douglas Quaid. Alimenti la mente coi post, racconti una vita nei blog, ma di fatto non vivi da un tot, da mo che ti senti in down. Road, carichi e scarichi, digiti ma non dialoghi, l'unico sistema che aggiorni sono i tuoi alibi. Naviga in te stesso, non ti serve un server adesso, il tuo portale è già connesso alla rete neurale dell'universo. È vero, anch'io sono in mezzo a tutto questo, ma la differenza è se ne fai parte o sei solo un mezzo. Invento puntini e continuo a crearlo, oltre i confini di quel che ti parlo, mi perdo nel farlo, mi trovo di fatto fra i tanti frattali, combatto coi fatti gli effetti fatali dell'ego, si chiamano uomini e donne che negano in pieno per riempire il vuoto che creano. Quello che erano muore col tempo, il corpo continua a buttare cemento sul tempio. Eccoci dentro, anime in cella, di isolamento è come in cielo, così in terra, dentro e fuori, stando soli, stanno sparendo anche le stelle mentre calpestiamo i fiori. Si invertiranno i poli, come false e veri invertiranno i ruoli, per farvi stare buoni, tante risposte, meno domande, dammi notizie, corte di gambe, dentro galassie di giga che girano mentre lo spazio diventa più grande. Ma la forma di questo pianeta non si rivela, se dal satellite appare una sfera, osserva il punto di vista di chi me la spiega e spera che se l'aveva l'umanità intera, resta l'intesa di gente sincera con se stessa nella verità espressa mentre si avvera. Anche questo brano era molto bello, che dici Fabio? Sì, sì, io ho apprezzato. Avrei fatto anche, avrei aggiunto qualcosa mentre lo ascoltavo, eh? Vabbè, poi ognuno c'ha la sua visione. Anzi, passami la base che poi mi diverto a casa. Remix. Tutta la meraviglia l'avete trovata per voi. Ero sono i sette, tutta la meraviglia. Il signor Giovanni Ranna. Della musica. Della musica. Ma va cagherva. Ok. Il tortellino del da minore. Intanto mi dicevate invece che siamo in collegamento col vostro produttore, giusto? Esatto, Leonardo Vicari. Aspetta che lo sente. Ci senti? No, non Albanu, aspetta, adesso aspetta, non è che aspetta, abbiamo pagato la bolletta questo mese. Non lo so, sai Fabio. No, vabbè, niente, adesso vediamo di risolvere il problema subito dopo, dai. Volevo farvi lasciare i vostri contatti intanto. Tanto giusto per. Allora, guarda, intanto vi dico che come su YouTube Devia Clan e La Cura Production, mentre su Instagram è Devia Clan Official, su Facebook è Devia Clan, appunto. Ok. Queste sono le pagine in cui potete contattarci, scriverci per i live. E quant'altro. Ma sento Leo in sottofondo. C'è. E aspetta, abbiamo qualche. È al massimo, vabbè, niente. Adesso vediamo. Magari lo recuperiamo subito dopo. Dai, intanto finisci pure di darci i tuoi contatti. E niente, vabbè, la mail è deviazioneclan@gmail.com. dove potete scriverci qualsiasi cosa, e dove noi infatti pubblicheremo poi invece sui social live, serate e quant'altro, quindi chi vuole seguirci ovviamente il benvenuto. E niente, su Bandcamp troverete il nostro disco ascoltabile in streaming o acquistabile in digitale, e sui vari portali appunto di digital store, tranne Spotify. Okay. E non ci troverete. Come mai? È una scelta vostra così? Sì, o? Sì, è una scelta. Una scelta di marketing, diciamo, non, per ora non ci interessava 3, 2, 9. Seguire. Ci sta richiamando. No, sono io che sto facendo le prove. Vabbè, niente. Facciamo così, allora. I brani vostri, diciamo, li abbiamo ultimati, però non rimanete qua con noi. Intanto, così ci ascoltiamo quindi un po' di brani, vabbè, della nostra programmazione, come vi dicevo, tipo Net Label, e vediamo di metterci in contatto con il vostro produttore, che dovremmo esserci, no? Abbiamo risolto i nostri problemini tecnici, dai. Va bene. Fantastico. Io direi che per il bene di Fabio e dei suoi polmoni, visto che lo vedo già pronto, direi che lanciamo la pubblicità e ci rientriamo subito dopo. A dopo. Abbiamo ripreso un po' dopo la pausa. Sì, Tony, dai. Ho sbagliato, te, sì, non lo so. No, vabbè, scherzo, abbiamo fatto un po' di casino stasera, dai. Vabbè, però abbiamo gli ospiti, quindi ci sta, dai, un po' di più bordello rispetto a... Ma sempre tutta gente simpatica. Meno male, meno male, meglio così, meglio così. Tra l'altro, invece io ho problemi col mio telefono, adesso vabbè, lo lancio fuori dalla finestra. E non hai il melanino, te. Già, bravo, bravo. Però se avevo quello non potevamo fare le nostre interviste telefoniche. Ma neanche adesso però. Vabbè, adesso risolviamo il problema, dai. Abbiamo ascoltato un brano un po' particolare, abbiamo ripreso un po' sul genere più... Noi siamo un po', partiamo sempre dalla musica un po' più, che so, tipo jazz abstract, un po' di rap, poi andiamo un po' sul tamarro, è un po' così, è un po' vario il nostro programma. E questa è un'etichetta che si chiama Da Heard It Record, che è un'etichetta francese net label. Io direi che lanciamo il prossimo brano e vediamo di risolvere i nostri ultimi problemi di connessione stasera. Quindi vediamo di poi dopo di avere anche il loro produttore al telefono. Thank you. Eh sì, Tony, ho trovato questo brano della Fusion Net Label, un po' particolare, un po' sì, così. Il nome da... Fusion non è che ci sta, però va bene, dai. Però guarda, se, a proposito di prima che stavamo parlando di tag dei brani. Cioè... Questo sarebbe, questo brano ecco. È un trip hop indie reg. No, ma secondo me questo ah, è quello abstract. Dell'etichetta. Nel tu senso... dimmi cos'è Abstract, anche loro che lo abstract, fanno. Abstract. Abstract. Abstract lo sanno tutti, non lo sa nessuno. Esatto, non lo sa nessuno. Abstract, è boh, un po' quelle arte, ben stabilito, esatto, un po' paradisiaco. Va bene, va bene. Fuori onda, appunto. È interpretazione, comunque. Bravissimo. Libera interpretazione, mi piace come definizione. Intanto forse riusciamo ad avere al telefono il vostro produttore. Leonardo Biccari. Ci sei, Leonardo? Ci sono, raga. Ciao, grande, grande. C'è, finalmente. Ciao. Ringraziamo la Vodafone, Fastweb, Wind e Team per il collegamento. Sì, adesso ci vengono a chiedere i diritti, però. Meglio, citate tutte. Ok, fatto par condicio. Iliad. Vabbè, allora, ascolta, visto che ci sei, ti rubiamo pochissimo tempo. Volevo avere qualche informazione su questa tua produzione, su Devia Clan, giusto? Che se no sbaglio sempre a pronunciarlo. Non so, come dacci tu qualche informazione in merito. Allora, Devia Clan è una formazione di zona, diciamo, Monza, Brianza, e un anno e mezzo fa circa ci siamo incontrati, mi hanno fatto sentire un primo lavoro preliminare che avevo poi stampato, un live, e mi sono piaciuti tanto, malgrado io non sia un ascoltatore, un consumatore, ecco, diciamo così, di hip hop o di rap in generale. Mi è piaciuto tanto perché era una formazione che, a parte un hip hop suonato, quindi già per me che sono un amante dell'R&B, della black music, comunque insomma dello stile anni 70, mi è piaciuta molto tantissimo la loro formazione. E poi ho impattato con due, secondo me, cantautori, ecco, io vorrei chiamarli così. È veramente, veramente, veramente, veramente molto, molto interessanti. A me è piaciuta molto la formazione che hanno, devo dire la verità. Mi ha stupito la formazione fatta in questo modo, con chi scratcha, chi comunque suona il basso. Comunque suonano molto live, che non è particolare come cosa, effettivamente. Esatto, la stessa cosa che mi ha colpito, perché io ero già rimasto affascinato da altri pop, da altri rapper con cui mi sono incontrato in studio, non voglio dire ho lavorato, avevano però una dimensione, diciamo, in cui non c'era molto spazio per una vera e propria produzione, no? Perché comunque hanno il beatmaker, hanno una serie di bellissime risorse, ma effettivamente non c'è molto la dimensione di un produttore vero e proprio che ragiona con loro sui testi o che dice questo lo facciamo, questo non lo facciamo, insomma mette mani nel vivo della musica. Invece cosa che con loro, malgrado abbiano comunque le idee chiare, abbiano avuto le idee chiare su tutto praticamente, però cosa che con loro invece ho potuto fare, io mi sono divertito molto e spero anche loro. Assolutamente, Leo. Eccoli là. Sì, sì, ci sono, ci sono. Sì, siamo in ascolto. Infatti, se parlavi male di loro, ti ascoltavano. C'è uno che prende anche appunti, occhio. E niente, quindi sono questi ragazzoni che voi vedete lì, questi bei ragazzoni grossi, enormi, che scrivono cose fantastiche, e mi ha colpito molto perché era la prima, diciamo, il primo modo di scrivere introspettivo, che toccavano temi del nostro, diciamo, scorcio economico italiano politico, però in una maniera introspettiva, cioè quasi trascendentale. Questa cosa mi ha affascinato tantissimo, perché finalmente non ho impattato, magari tu ce l'hai lì, no? Sono alti 1,90 m, sono enormi, tatuati, tu dici cazzo, questo mi farà accarimazzare, come dice in Puglia. Invece no, c'era questa dimensione trascendentale, poetica, questa dimensione che a me mi è piaciuta tanto. Quindi dice, comunque sulla produzione non hai fatto tanto lavoro, perché già loro effettivamente erano abbastanza completi, giusto? Quello che volevi dire prima. Sì, loro erano abbastanza completi, avevano già diciamo, delle le idee erano bene o male quelle che sono sul disco, quindi è stato, diciamo, più che altro ho creato un sound che è un po' più accattivante. Bene o male, diciamo, le idee erano le loro. Abbiamo lavorato un po' su poche cose, ecco, ogni brano aveva una sua caratteristica, caratterizzazione, e c'è stato, diciamo, anche lo spazio per degli accorgimenti, secondo me, che lasciano poi intendere che c'è stato un lavoro di cesello e non solo un lavoro puro di pura, diciamo, comunicazione musicale. Beh, il risultato è ottimo, devo dirti la verità. Va bene, va bene. Voi dovete dirgli qualcosa, qualche informazione di servizio, non lo so, un messaggio WhatsApp. Grazie, ecco. Leo, che sei riuscito a essere qua con noi durante l'intervista. Grazie, fratello. Va bene. L'ho fatto tardi, purtroppo, non potevo essere lì. Sempre presente. Sto ascoltando in diretta. Adesso ovviamente ho dovuto mettere in pausa perché avevo feedback col mio cellulare. Sì, l'effetto Larsen intanto si fa sentire. L'effetto brutto. Va bene, noi ti salutiamo. Adesso andiamo ad ascoltare un altro po' di brani, però magari li teniamo ancora un po' in ostaggio un altro po', gli facciamo un altro po' di domande un po' sul mondo della musica in generale, ecco, così li mettiamo un po' sotto torchio. Noi ti salutiamo e andiamo ad ascoltare un altro brano. Ciao Leo. Andiamo ad ascoltare un altro brano di un altro gruppo italiano, penso un po'. Oggi ci siamo lanciati nella musica italiana. Strana. E loro sono della Edison Box. Noi facciamo il dopo festival dopo. Sì, praticamente sì. Loro sono i Karma Sonica con un brano che si chiama Crisi. Ascoltali, perché può essere che li potremmo ritrovare tra le nostre stanze. Tutto scritto, non serve dirmi ciò che è vero. Passo lento, guardo dritto, riconosco ciò che è finto, non è più bello ciò che è vero. Non sono vinto, non so che fingo di essere vivo e mi convinco che morire è inutile. Siamo figli della crisi, siamo morti, siamo vivi, siamo io e te. Siamo figli della crisi, siamo morti, siamo vivi, siamo io e te. Corro forte, capochino, grido al vento, ciò che sento non son mai stato così vero. Mi conosco, so chi sono e mi accorgo, non sono solo ciò che aspetto. Siamo figli della crisi, siamo morti, siamo vivi, siamo io e te. Siamo figli della crisi, siamo morti, siamo vivi, siamo io e te. Siamo figli della crisi, siamo morti, siamo vivi, siamo io e te. Non dispiacciono, voi avete fatto domande, avete fatto facce strane, però a me non. Sì, io già dal nome. Perché no? Dai, che c'è? Il nome relativo, più che altro, nel senso. Però un richiamo c'è già anche dal nome. Sì, però nel senso. Diciamo che non è uno stile che mi incalza tantissimo nelle mie note. Invece a me piace perché mischiano anche un po' di qualcosa. Mi ricordano quel gruppo lì di Torino. Cioè, sinceramente. Poi, però, secondo me la voce. Già dal nome, Sonica. Ah, Sì. Ops. Sì, sì, sì. Però la voce così, nel senso con più voci, c'è un po' d'effetto così. Preferisco più la voce naturale io, se devo fare uno stile del genere. Ho capito, ho capito. Vabbè, però. Esalta più la sonorità della voce, sinceramente. Devo dire la verità. Gli effetti camuffi tanto. Devo dire la verità, questo è uno dei loro primi brani che avevano prodotto. Quindi. Sono acerbi. Potrebbero essere magari acerbi, quindi poi dopo crescere negli altri brani. Abbiamo un nuovo produttore, Fabio. È vero, Fabio è vero. Fabio è il tale scout. È vero. Tale scout. Ma smettetela, per quattro note che sto suonando. Anzi, come ti hanno definito questa sera, sei il Giovanni Rana della musica. Se uno vuole fare una suonata con lui, fa un duetto. Sì, sì, sì. Fa un tortellino. Vabbè, dopo questa, perché dopo siamo alle 9:30, quindi diciamo ormai siamo aperti verso abbiamo tirato anche lungo con le cose serie. Ma neanche tanto, perché poi allora erano molto simpatici, tra l'altro non sono morti, No, erano nel senso a livello diciamo di interventi, adesso comunque sono preso un attimo di pausa, che devono anche loro dare aria ai polmoni e poi dopo ritornare. Sono amici del Roots Man. Sì. Va bene. Ci spostiamo sempre dei palo in frasca, perché mi piace così. Stasera lancio da un brano all'altro, e visto che siamo in tema, questo è anche un po' più acido. In questa giungla della musica, in palo in frasca, in questa giungla della musica. Oh, ma cioè, veramente. Ragazzi, allora, questa tra, qui è una perla. Cioè, bravo. Hai visto? Io lo cambierei. Adesso non lo chiamerei più Wolf Trips, ma metterei Wolf Jungle Trips. Forse poi è un riferimento alla musica, però. Sì. Comunque, il brano è di Adder Acid con Crackle Light, qualcosa del genere. Adesso non lo so come dire. Ma c'ha ragione Tony. Cioè? Crackle Light. Crackle. No. Sì, questo va bene per, diciamo, non so, il fine serata. Però vabbè, a parte il brano, tra l'altro ti ricordo, Tony, che dobbiamo scegliere sempre il brano della settimana, perché poi dobbiamo collaborare con la nostra, diciamo, webzine Indie for Bunnies, che vuol dire... Io c'ho già in mente fino adesso, per me è già il secondo pezzo che hai messo questa serata. Era. Non mi ricordo, perché tu sei arrivato dopo, quindi non so qual è il secondo di quando sei arrivato tu. Non è che... cioè... ha fatto lo stile Fabio, cioè che arriva dopo che si fa fare i suoi. Sei un esempio da imitare. Hai visto? Ragazzi, imitatemi. Ok. Però non trombo come te. Vai adesso. Dai, il Giovanni che, Rana del letto. Che io, no, nel senso che io trombo te, no. Cioè, questo discorso. Vabbè, allora, quando lui inizia, no? Cioè, ha sempre questa deriva che poi non riesco a controllare. Scusa, mi stavo portando anche me. Cado nel degenero. Comunque, tornando un attimino seri. Il brano che mi sono dato prima, che vabbè, a parte essere un po' acido, effettivamente, come brano... Era così, era della Phono Cake, che in realtà è un'etichetta molto carina, la spagnola. Phono Cake. No, ma non è quella che fa le torte che suonano. Sì, sì, ecco. Phono Cake. Queste, sì, se mangi una di queste torte. Beh, effettivamente il logo richiama un po', perché vedi, sembra una torta tagliata. Sì, vedi? C'è ragione. League logo, beh, il logo cake della Phono è quello, cioè. Sì. E da sempre per cambiare da palo in frasca, quindi ritorniamo sul discorso della giungla della musica. Wolf Trips, un viaggio nella giungla della musica. Dovremmo fare un nuovo jingle. Sì. Wolf Trips, un viaggio nella giungla della musica. Così mi sono fatto il jingle. Adesso no, dopo lo... sono cagato addosso, dico, non ascolto più. È vero. E il, passiamo all'etichetta Enough Record. Si dirà così? Sì, Enough Record. Abbastanza. E passiamo dalla Spagna alla Portogallo. Portogallo che produce molta roba molto interessante. Andiamo a ascoltare questo brano che è Aerologic con Carousel. Carousel, che sembra un po' lombardo, detto così. Carousel, no? Sembra Carousel. La pubblicità degli anni 50. È il Carousel. Carousel. È il Carousel. Carousel. We'll be right back. Sì, l'ho voluta tagliare proprio sul pezzo che ti piaceva più a te. Che poi hai visto, sei proprio entrato giusto a tempo, cioè proprio sì, te l'ho fatta. Hai calcolato il tempo del delay. Comunque abbiamo sbagliato tutto, Tony. Allora, questa qua invece è di una etichetta che si chiama Tuca Music. Ah, ecco, sì. Che è un po' più effettivamente sì, più sul genere. Sì. Sul genere. Come possiamo dirlo? Boh, sì, EDM, non lo so che genere sia. Com'era Abnormal, no? Abstract. Ecco, questo è Abstract. Lanceremo un sondaggio nei prossimi giorni. Che cos'è l'Abstract? Bravo, il curato dice indie. Cosa fa indie? Che cazzo è? Non si, se tutti facevano indie, no? Adesso è Abstract. Fantastica quella pronuncia, mi piace. Abstract. Come il nome di un profumo. Mi sembrava più la sigla di un porno. Porno astratto. Brutto il porno astratto. Porn trips. Immaginazione. Esatto. Basta. Un nuovo programma, porn trips. Sai che con me c'è il degenero, cioè devi farti una ragione. No, perché poi sapete, io devo, poi dopo devo fare l'editing di tutto il podcast, no? Poi sì, devo fare tipo taglia e incolla. Censura. Su internet io non esisto, ogni volta che parlo lui taglia. Via. Sono più le cavolate che dico. Ma no, libertà di espressione. Sì, no, mettiamo tutto, alla fine mettiamo tutto. Ma e visto che siete tornati, io mi ero tenuto in serbo una domanda e non faccio nessuna battuta strana. Ecco, è meglio. In serbo. Eccoli. Io me ne vado. Quindi ce la fai in serbo. Bravissimo. Parti con Abstract, se no non lo so. Vabbè, senti, dico, giusto che ci siamo, visto che me l'hai lanciata, chi vuole intendere intenda, chi vuole intendere in campo. Vabbè, no, una cosa, stiamo parlando la settimana scorsa serie in realtà. Abbiamo parlato che sta un po' calando lo sviluppo del CD. Però voi giustamente avete prodotto un po' di... Ecco, aspetta, cosa c'hai? Mi fermo subito. Lui è molto diplomatico. Dalle sue stesse parole ha detto che il CD morirà. Beh, ma è già morto. Ma no, invece voi che avete comunque... ci avete portato dei bellissimi CD, anzi... è una cosa bellissima. Cosa ne pensate invece del CD? No, della produzione su CD in generale? Ma allora, diciamo che quello che a me interessa... quello che a noi interessa è la qualità di quello che vai a offrire. Quello sì. Quindi poi il supporto su cui vai a distribuirlo, lì è un po' una scelta personale in base a quello che vuoi ottenere. A noi andando in giro a suonare live ci piace dare qualcosa in mano di fisico, è bello. È rimasta sta cosa che ti puoi comprare anche la maglietta, ti puoi comprare il CD, ti porti a casa il CD. Comunque è un oggetto a cui dai un valore, al di là del valore monetario. Cioè comunque è un oggetto che... È un oggetto, ci piacerebbe, bravo. Ci piacerebbe stampare anche il vinile. Sì, sì, no, è fattibile, secondo me inizia a diventare fattibile la cosa. Secondo me è comunque bello. Il vostro amico che abbiamo avuto settimana scorsa addirittura ci ha detto che lui sta riprendendo la produzione su cassetta. Sì, c'è qualcuno. 51 bit aveva fatto tempo fa. Aveva fatto una cassetta. Ha detto che stanno facendo molta roba su cassetta, sì. E costa veramente poco. Sì. Come... Se ci fosse qua Marcio sarebbe stato molto contento. Sì. La cassetta. E posso dirvi che effettivamente è una tendenza che vedo spesso anche su Bandcamp. Sì. Che si possono comprare i brani. Vabbè, noi seguendo comunque Netlabel, ovviamente facciamo diciamo alla buona, tiriamo giù a gratis. Però in realtà sempre le stesse Netlabel producono anche su cassetta e non è male. Sì, mi piace la cosa. Secondo me è bello comunque. È una questione fisica, no? Poi è bello che resta anche underground questa cosa, in realtà. Sì, tu puoi comparti le robe Fedez, comprano in digitale. Bravissimo, bravissimo. Tra l'altro neanche più, perché leggevo proprio un articolo che parlava che ormai la nostra vita è in abbonamento. Nel senso, ormai tu dici nemmeno comprano più la musica, nemmeno comprano più le cose in generale. Sì. Tu ti compri l'abbonamento a Netflix, l'abbonamento di là. No vabbè, ci sta. Però effettivamente poi a uno non rimane nulla. Hanno ottenuto quello che volevano, cioè farti pagare il niente. Il niente. Io guarda, l'altro giorno vedevo i valori che ha un cantante, c'è cioè un artista per ogni traccia che passa su Spotify e dello 0,006 su YouTube premium. Su YouTube ancora meno, c'è cioè uno zero in più. Dunque 000. Tu pensa che negli anni 90 gruppi come i Green Day prendevano di royalty quasi il 30% degli incassi dell'etichetta discografica era ai tempi la Lookout Records, e poi sono passati sotto Warner Bros. Quando hanno fatto poi American Idiot, devi dicendo. Beh, perché anche sono anche autori. Pensa un po'. E lì però avevi il canale che era la cassetta e il CD, cioè sì, non c'era ancora il boom di internet. Vinile. Cioè, quando scaricavi col 52K facevi prima andare giù a, sì, a comprarti il CD, perché dopo tre giorni avevi ancora lì che si collegava. Io mi ricordo che andavo in biblioteca, era 100 lire ogni 10 minuti, una roba del genere, lasciavi lì il deca e dici torno domani a scaricare. Certo, no, ma è vero. Però, Madonna, per dire, da quando gli hanno abbassato le royalty, si è tolta dall'etichetta e si è fatta un'etichetta sua. O forse sì, sì, ha mantenuto quella ticket one per gli incassi dei biglietti e basta, leggero. Non lo so, non lo so. Cioè, per dire, ormai anche i grandi con le royalty ma non guadagnano. Sì, ma non è ormai con il metodo. Per quello noi stiamo cercando di autofinanziarci e di dare, appunto, comunque per poter rifinanziare il progetto, per il nuovo progetto, andare avanti, far crescere comunque la band, cerchi di dare qualcosa di reale, comunque i CD, fare i merchandising, cerchi comunque di andare a suonare in giro, con i live, ma è quello che... Ti dico di più, una grossa casa discografica di Milano che conosco, mi dicevano che oramai gli incassi che guardano anche loro non è più la stampa del CD, perché ormai con l'online... ma con bravo e il merchandising, sì, sì, sì, è quello che a loro interessa. Infatti loro prendono tanti gente dai talent, perché comunque hanno già un pacchetto di immagine già prefatto, certo, quindi tra scegliere uno o l'altro tendono, non è che prendono per forza quelli, però con quelli sanno già che hanno già una loro immagine fatta. Come facciamo prima, l'immagine conta più del ad oggi non c'è più nessuno che dice cazzo credo in te come artista, ciao amica, si rischia lì, molto meno, ti metto di qualcosa, adesso se vedo che ok hai fatto un po' di progetti, c'è un bel po' di view, allora inizio a interessarmi, oppure hai fatto il talent, fatto quello, ok so come venderti, capito, è diverso. Invece un tempo se andava lì cazzo per me spacchi, sei un grande artista, voglio credere in te, ad oggi non è così, perché ad oggi è impresa. Eh sì. Va bene, tu vuoi dire qualcosa che vedevo che ti sei lanciata? No, dicevo che prima si basava la qualità di una persona su quanta gente porti, adesso su quanti follower hai su Instagram. Tu taci che ho visto che hai condiviso una pagina dei Modà e ho detto tutto. Certo. Quindi... lo rifarei, no, niente, no. Se vuoi la condivido ancora, no, no, no. Condividi la nostra. Lo faremo sicuramente. Devia Clan. Oh. Stasera ci stiamo perdendo in chiacchiere. Dovremmo fare un programma da 6 ore stasera. 5 minuti alla fine. Manca 5 minuti, è vero? Già. Dobbiamo fare i saluti. Tutti stasera. Tutti quelli milanesi, ragazzi. No, abbiamo dei saluti speciali da fare, però li teniamo per dopo. Adesso stiamo parlando, Tony, tu ti hai ripreso, però stiamo parlando di una cosa interessante, nel senso, come la vedi l'evoluzione del mondo social? Una cosa però veloce, devi fare una cosa spiccia spiccia. Ok, boh, a posto, l'immagine è zero. No, nel senso, i vari, sai che noi facciamo sempre un po' i polemici, cioè abbiamo anche l'aspetto polemico ogni tanto. Cioè i vari fenomeni da social, no? Prima o poi finiranno. E poi che fanno una vita? Cioè, è quello che mi chiedo io ogni volta. Che faranno? Beh, loro mi sa che non è che gli importa molto, l'importante è vivere il momento. È vero, ma mi hai dato una risposta. Vedi, hai trovato. Noi magari avevamo più un'idea del futuro, no? Cioè, sì, sì, come voi, da 10 anni a questa parte, comunque sono cromiti, anzi, si sono allargati. Sì, è vero, è vero, è vero. Un personaggio come un. Sì, cercavi di fare qualcosa di duraturo nel tempo. E che rimane nel tempo. Cioè, prima, per esempio, facciamo un po' di esempi. Adesso, vabbè, la lancio lì. Anche se devo dirti la verità, mi devo un po' ricredere. Diciamo, la musica trap, no? Adesso la lancio lì. Ecco, sapevo io che lo ammazzavo subito. No, però, allora, adesso vi devo dire, nel senso. Due morti hai fatto. Due morti. No, ma semmai ne ho fatti tanti. Non sto dicendo bello o brutta, nel senso. Sì, no. Non è. Forse lo dicevamo anche prima con loro. Non esprime nulla, esprime solo il fatto che se fai musica trap, magari riesci ad acchiappare molti più follower. Ti ascoltano molto di più perché è la moda del momento. Io penso che il 90% della gente che ascolta il trap pensa che sia una derivazione da rap. Trap. Ah, ma allora sì, la trap. Secondo me è un'evoluzione dell'idea. Sì, ma non dico però la parola trap non c'entra niente con rap. No, ecco. Assolutamente. Questo che voglio dire. Penso che tanti pensano che sia. Le trap house non c'entra proprio. Sì, ma che sia una derivazione del rap. Ecco. No. Sì, però io dico la mia. Poi magari dico minchiati, cioè sulle cavolate, scusate. Ah, no, ma non lo dici, no, ma le dici tanto. Però magari se io devo avere il. Come si chiama? Il. L'autotune. Cioè io canto, comunque dovrei saper cantare. Cioè io rappo, dovrei saper rappare. Ma se io non so fare né l'uno né l'altro e prendo l'autotune per cercare di quadrare una nota, cioè a questo punto io prendo la prima persona. Poi avessi magari qualcosa di spesso, prendo una canzone di spessore, non so, degli anni 50, 60, 70, dove c'erano dei parolieri, capito? Allora dici, ma non è neanche quello, cioè molte volte no, è veramente è moda. Labile, febbre, cioè allora, prendi il ragazzo, il belloccio, ti mette lì con questo voce metallica, perché l'autotune te la fa metallica. Infatti adesso è nato, in realtà nasce quasi dal non saper cantare e mettere l'autotune, ma in realtà il difetto dell'autotune è diventato lo stile della trap. È vero, cioè, è vero. Se canti intonato con l'autotune non vai fa a percepire schifo. L'effetto dell'autotune. Certo, perché l'autotune non ti corregge la nota. Per far sentire la correzione dell'autotune, tu in realtà devi stonare e quindi c'è un modo proprio di rappare quasi più un vocale per far sì che crei quell'effetto, quindi si è creata una tecnica nell'ottenere quella voce, quindi più uno è stonato e più è bravo, esatto, nella trap, esatto perché Rolls Royce vai a percepire la ricerca dell'autotune, di metterti in nota di quello che è l'effetto che va a creare. Cioè tipo io la mattina dopo il caffè e la sigaretta lo fai benissimo, in bagno faccio un autotune spettacolare, cioè, ragazzi, in bagno no, più metallico di quello ce ne sono pochi. Perché c'è il BC di alluminio? In realtà lui è l'uomo di latta del mago di Oz. Okay. Va bene, dai, ascoltiamoci l'ultimo brano della serata e poi facciamo i nostri saluti tutti quanti e vi lasciamo con queste, diciamo, elucubrazioni mentali da approfondire. Che cazzo vuol dire elucubrazioni? Come non vuol dire? Che io ti tiro fuori dei termini che guarda un po'. Che lui fa parte di saggezza. Lui fa parte dell'Accademia della Crusca, sì. Cioè, tutti... al mattino però. Matrix, I viaggi del lupo. E dopo stavo andando. Perché? Stavo facendo un tuffo nel blu. No, dovremmo rifare il jingle adesso, quindi. Sì. I viaggi nella giungla, come dicevi tu. Wolf Trips. No, non l'ho capito. Io lo facevamo tutto in no, no, no, deve essere una persona solo lo fa, non è troppo un casino. Okay. Va bene, dai, siamo arrivati un po' in ritardo in fondo, però eravamo presi dalle discussioni, quindi vabbè, ci sta, dai. Ci sta, intanto il programma dopo non c'è, anche stasera. Poi quindi è stato un programma con tanta cultura, poche sì, pirlate, come dico io. Toba. Quando loro erano fuori, secondo me, la spara di tutti. Io, sai, io faccio la parte di ogni. Niente, no? Va bene, come va bene. La parte? Non lo sei? Io sono demente. Comunque volevamo salutare allora, delle salutiamo persone importanti. Tutti gli ascoltatori di Beura Cardezze, diciamo che non ferma il treno. E anche di Vercurago San Girolamo, anche lì non si sa perché non ferma il treno. No, ma noi siamo pendolari, quindi tutti i giorni si sente sempre, sai, fermo in tutte le fermate tranne a Vercurago San Girolamo. Infatti, che è questo posto? Ci dispiace per loro, ma cioè io non lo so. Chissà che è da Natale uno che aspetta in banchina, l'hanno detto. È lì. Adesso fanno anche la conosco. Di Vercurago San Girolamo. Sì, è carina? Sì. Dai, dagli il mio numero. Wolf Trips, i porci. Va bene, va bene, dai, niente, salutiamo i nostri ospiti di questa sera, Devia Clan. Grazie ragazzi, ciao, grazie belli. Mille, grazie a tutti, ciao, ragazzi, vero. Grazie a voi, siete grazie fatti. Grazie ragazzi, tornate a trovarci. Riorganizzeremo. Volentieri, volentieri, magari torniamo con un piccolo live, se vi va. Infatti. Dai, dai, molto volentieri. Ti ripeto, non verso giugno, così qua, così ho spassionato. Dovreste venire a sentire il lunedì sera in sala prove da noi. Lo so. La sala prove è grande così, immaginati 7 persone. Lo so, lo ben immagino. Noi quando andavamo in sala prove eravamo in mutande, tutte le volte. Sembra uno spogliatoio di una squadra di football. Io mi sono presentato con la ciambella e la paperella davanti, no? La chitarra. Sì, va bene. Con la foglia di fico. E poi salutiamo Tony che lo vedo sempre più allibito. No. Questo. Va bene, va bene. Serioso, Tony. Troppo serio. Non sì, mi piace. Infatti adesso lo cancello, sì, ne prendo un altro di Tony. E salutiamo Katia che è qui, che ci ha fatto 8 miliardi di foto. Penso ciao, che Katia. Abbiamo materiale fotografico poi, da qui al 2030. Puoi mandare il conto anche a loro. Perché l'ha fatti sicuramente più belli di come sono. Già ritoccati direttamente. Come fa miracoli, dunque. Quindi super fighi. Ha battuto i follower che ho io su Instagram in 2 minuti direttamente. E io ne ho 3. Con 3 poi profili diversi. Salutiamo il buon Fabio che vabbè. È lui che ogni volta mette profili, mette like alla bravo. Ci salutiamo noi stessi, salutiamo la Cri, Fabio ciao, e me stesso. E niente, ciao. Ci ascoltiamo tutti insieme o su nei vari podcast o settimana prossima. Hola. Adios. Yeah. Ciao. Ciao. Ciao.